Tipico senza cuore, voglia di l'essenza, noi amo a fare a pensare a cazzo di noce, se ma se ancora ne veglia per festa, buscata la resta e ta frega con me. Rogers. Mi sa mai che ringuerta fila vandu zorro. Ah, lo sai, fra, e se pone fanna molto. E non ti preoccupare, zizi, che c'è cugino ma che sberrozzo.